Cronache Meridiane di Gianluca Nicoletti. Difende la maestra di Traversetolo la Gilda degli insegnanti, sostenendo che alla base della vicenda ci siano antipatie e chiacchiericci di paese. Ma non è tutto, la donna accusata di maltrattamenti con l'aggravante dell'odio razziale avrebbe a sua volta denunciato due persone per calunnia, segnalandone una terza all'ordine degli avvocati per il suo coinvolgimento nella vicenda. Tutto montato ad arte, dunque? La procura sembra avere in mano testimonianze che dicono il contrario. L'indagine, peraltro, risale 8 mesi fa e all'insegnante è stato impedito di presentarsi in classe già dal primo giorno di scuola. La Gilda degli insegnanti ha deciso però di rappresentare la docente, specificando di aver avuto accesso agli atti. Inoltre, già in passato, la sigla si era concentrata sulla vita scolastica di Traversetolo, denunciando comportamenti anomali nei confronti degli insegnanti. L'ideale sarebbe che non ci fosse bisogno di prese di posizione sindacali, ma non ci fosse bisogno nemmeno di intercettazioni ambientali, non ci fosse nemmeno bisogno di procure che indagano, perché potrebbe accadere, nessuno lo esclude, anche gli insegnanti sono esseri umani, sono soggetti a tutte le debolezze, a tutte le intemperanze, a cui è soggetto un essere umano, ma la scuola deve avere un suo apparato di controllo, per cui se un insegnante va oltre quelli che sono, diciamo, i necessari limiti deontologici del proprio ruolo, ci sia un sistema che lo prende in tempo, capisce, interviene, provvede, insomma, ancora prima di reprimere in maniera forte, come diciamo una notifica fatta dai carabinieri in delle indagini preliminari dopo delle intercettazioni ambientali, ci dovrebbe essere una scuola che su questo comunque è attenta e vigile. È anche vero che nella scuola si possono creare oggi delle infinite tensioni, il partito dei genitori contro l'insegnante che difendono i bambini e via dicendo, però parliamo di una prima elementare, bambini di prima elementare, un insegnante elementare che sembra che sia stato necessario comunque, prima di arrivare alla conclusione perlomeno della fase di indagine di questa vicenda, fare delle intercettazioni ambientali, a cui sarebbe venuto fuori quello che è su tutti i giornali: l'insegnante che dice ai suoi bambini siete un branco di scemi, non capite niente, siete degli asini, tornatevi nella giungla dove siete venuti, branco di scimmie ladre. Qua si rivolge in particolare ai bambini di origine africana, quelli con la pelle più scura, che oggi è una realtà comunque presente in maniera enorme nelle nostre scuole. Bisogna fare conto che c'è anche questo e anche peggio. Beh, oggi parleremo, partendo dalla vicenda di Traversetolo, su questo sistema che noi puntualmente, ci capita abbastanza spesso, ci occupiamo di scuole dove accadono episodi del genere, ma se ne ha sempre notizia quando poi un magistrato ordina un'intercettazione ambientale. È possibile che prima non se ne accorga nessuno, nessuno lo dica, nessuno provveda? 800240024, a tra poco. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta. Melog. Cronache meridiane. Maestra indagata è stata prosciolta a livello disciplinare già relativamente a questo caso curato che abbiamo noi seguito. È una cosa che proprio non sta né in cielo né in terra, come si suol dire, perché si tratta di parole riportate da altri adulti a livello di paese e ingigandite e riferite all'autorità giudiziaria. Inoltre la persona interessata ha delle prove audio e video che addirittura la scagionano. Questa è ancora una volta la voce del rappresentante del Gilda, Salvatore Pizzo, che è il coordinatore provinciale del Gilda degli insegnanti, che è un sindacato che ha preso posizione nei confronti di questa maestra di Traversetolo, innocentiste. Non vogliamo entrare in merito alla vicenda di tipo giudiziario, però vogliamo un attimo inquadrare per quanto possibile questa storia, perché è una storia che se se ne parla nei giornali comunque ha una base comunque di dati certi e reali riportati dalle autorità giudiziarie e che ha eseguito poi in realtà l'intercettazione. Non vogliamo creare dei mostri, ma vogliamo capire semplicemente se esiste un meccanismo di non controllo all'interno della scuola italiana, per cui questi episodi vengono minimizzati, episodi sempre a carico di soggetti deboli. Siamo occupati più volte di episodi di maltrattamenti gravi sul ragazzo autistico nel Vicentino, abbiamo parlato di altri episodi di maestre che maltrattavano i bambini. lo sbrocco può starci, sono esseri umani, proprio a capire se la scuola ha strumenti di controllo, di reazione diretta verso questi episodi, o se no interviene sempre a coprire, a giustificare, a dire che c'è qualcosa di esagerato. Per far questo, intanto per avere un'idea di come collocarlo nel suo ambiente socio-geografico, questo episodio, ho al telefono Bianca Maria Sarti. Bianca Maria Sarti, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Gianluca. È la collega della Gazzetta di Parma che ha seguito da vicino questa vicenda. Ci dai un'idea della realtà in cui si è svolto questo episodio? Sì, è una realtà ancora carica di luci e di ombre, nel senso che, come giustamente hai ricordato tu, esistono dei fatti certi, inconfutabili, che sono le registrazioni audio e video dei carabinieri di Traversetolo, che hanno intercettato dallo scorso aprile, a partire dalla denuncia di due mamme della classe prima, quindi parliamo di bambini molto piccoli, hanno eseguito delle intercettazioni e hanno effettivamente poi riportato e reso noti in questi giorni delle frasi che sono sicuramente superano quella linea di demarcazione, diciamo, che c'è tra un rimprovero normale e quella che è violenza. Diciamo i virgolettati che ha usato il tuo giornale, che ho letto anch'io in parte, ma ce ne sono anche di peggiori, sono quelli che partono dalla fonte dei carabinieri, quindi nessuno se li ha inventati. Ecco, quello. No, esistono delle ulteriori accuse che sono riportate peraltro sul giornale di oggi, perché la Gazzetta di Parma oggi ha dato spazio a una delle due mamme. Ecco, aggiornaci sulle novità. Esatto, ci siamo concentrati un po' sui genitori perché era l'aspetto più interessante. Oggi è intervistata una delle due mamme che ha denunciato, che ha parlato di questo anno in cui si è trovata contro l'istituto e ha dovuto rivolgersi ai carabinieri per essere ascoltata, e dall'altra parte abbiamo il resto dei genitori della classe che invece in qualche maniera minimizza, ridimensiona. Io voglio dire una cosa importante: qui a Parma abbiamo avuto recentissimamente un precedente molto simile nel comune di Collecchio, in cui una maestra del nido, oggi ai domiciliari, è stata intercettata mentre letteralmente picchiava, schiaffeggiava dei bambini. In quel caso i genitori hanno fatto murano, c'è stata un'insurrezione, un'indignazione generale. In questo caso ci troviamo invece davanti ha un ambiente molto titubante nei confronti della maestra. Sì, perché mi sembra che nell'indagine è stata messa anche il dirigente scolastico per aver omesso, diciamo, un provvedimento nei confronti dell'insegnante. La ex dirigente è accusata addirittura di favoreggiamento per non aver di fatto preso i provvedimenti necessari. La ex dirigente era sicuramente stata messa al corrente dei fatti, i genitori, tutti questa volta, avevano fatto presente il problema, avevano riportato esempi concreti, bambini trascinati fuori dall'aula, presi per l'orecchio, bambini spintonati, quaderni in faccia, questo è stato riportato. C'è una maestra l'antica, per dirla in maniera diciamo non bonare, ma perlomeno una maestra usava metodi che si usavano negli anni 50, ecco. Sì, forse metodi un po' superati che oggi non sono più tollerati. Quello che dicevi tu è importante, cioè perché ci siamo resi conto e oggi stiamo parlando di questo caso perché due mamme hanno scelto di andare dai carabinieri. E questo, ma non è il primo caso, guarda, a livello nazionale accade sempre così, c'è sempre la reazione è questa. Esiste il partito dei genitori che tendono comunque a dire che è un'esagerazione, magari hanno detto in questo caso è un politicamente corretto esagerato, difendi i bambini neri, tutte queste cose qua. Un dirigente scolastico che se ne lava le mani, intervengono finalmente i magistrati, i carabinieri, fanno le intercettazioni, poi scatta il penale e le persone poi hanno processo e hanno anche i provvedimenti conseguenti. Io quelli che ho visto più o meno sono sempre andati in questa direzione. Fermiamoci un attimo, Bianca Maria, sento degli ascoltatori 800 24 00 24. Noi abbiamo, diciamo, la persona che sta seguendo da vicino questa vicenda, ci dà tutti gli elementi di aggiornamento, però vorrei sentire anche i pareri di chi può avere situazioni simili o storie simili, può darci dei contributi di comprensione. C'è qualcosa che mi sfugge in tutte queste vicende, mi sfuggono i partiti dei genitori, le scuole divise a metà, perché una maestra che maltratta è una realtà oggettiva, dovrebbero essere tutti d'accordo, se la maestra maltratta veramente, che c'è qualcosa da fare, un provvedimento da prendere. Antonella, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Io ovviamente, pur condannando questi episodi, ci mancherebbe, chi non si indigna davanti a queste misure educative completamente sbagliate nei confronti degli alunni. Io sono una docente, ma nello stesso tempo io trovo che purtroppo la non professionalità, l'incapacità lavorativa la troviamo in tutti i settori, soprattutto in quelli dove si relaziona molto con l'altro. Vediamo ad esempio l'ambiente sanitario, i medici, gli infermieri, quanto maltrattano. Sì, ma comunque, non facciamo gli ogni erba un fascio. No, però ascolti, a me sembra che ultimamente ogni anno all'inizio dell'anno scolastico si prendono sempre questi casi, si sbattono in prima pagina, sì, si sbattono dentro le trasmissioni radiofoniche o televisive, sempre per discreditare. Ma non è discreditare, io faccio il mio mestiere. Signora, mi ascolti per piacere. Sì, ascolto, perché devo finire. Finisca, certo. Allora, insieme a questi docenti che lavorano male, ce ne sono tanti bravi, tantissimi che lavorano benissimo. Lo so, chi lo nega? Voi una trasmissione così non la fate mai, come mai? Ma lei ci ascolta male. Non mi sembra giusto. Guardi, ha capito? Allora, prima cosa, perché signora, è difficilissimo, ma sia calma. Lavorare oggi nell'ambito scolastico, siamo discreditati su tutti i fronti. Va bene, i giornalisti, parliamo allora di come fanno il loro lavoro? Ma sicuramente. Vogliamo parlare dei giornalisti? Cosa come scrivono? Allora a questo punto dobbiamo essere onesti, non degli ipocriti. Allora, che se la ipocrita, prendono sempre, scusi, solo signora, con un determinato settore. Sì, no, ma lei non ha l'arte di lasciare parlare le altre persone. Ha fatto il suo pistolotto totalmente inutile, perché non ha aggiunto nulla. Ha detto fate di ogni. Io semplicemente faccio il mio mestiere, signora. C'è un fatto che è all'ordine delle cronache e ho tutti gli elementi per parlarne con serenità. Lei dia un contributo concreto a questa cosa qua, non dica ce l'avete con noi insegnanti. Io ho fatto centinaia di trasmissioni su bravi insegnanti. Ho chiamato il ministro, ho chiamato tutti, figurati, sono stato anche accusato di piaggeria nei confronti del ministro, che ho dato voce al ministro per parlare di un fatto difficilissimo come quello della Fandonia gender nelle scuole. Figurati, sto molto tranquillo, quello che faccio è alla luce del sole, non ho nessuna acrimonia contro gli insegnanti. Fare la difesa d'ufficio della categoria non è la maniera migliore, signora, non ci dà degli elementi per capire meglio. Ci sono dei bravi insegnanti, chi lo nega? Se c'è una vicenda del genere io voglio capire cosa succede, non è l'insegnante che giudico io, la giudicherà il tribunale alla quale sarà affidata. Io voglio capire il meccanismo, perché se tutti ragionano come lei, mi spiego perché accadono queste cose. Se per una cosa accade così tutti sono pronti a dire ma ce ne sono tanti bravi, non mettete il dito, non c'è all'inizio di nessun anno scolastico il desiderio di sputtanare gli insegnanti da parte mia. Deve essere chiaro questo, il suo è l'atteggiamento che tende in realtà a confermarmi l'idea che esiste un apparato omertoso attorno a queste cose, che difende la categoria, e non può essere così. Cristina, buongiorno. Sì, buongiorno, io chiamo da Reggio Emilia. Io sto vivendo da un anno queste situazioni, per fortuna sia nella scuola primaria di mia figlia, l'asilo di mio figlio, non sono successe cose gravi come a Traversetolo o come altre che abbiamo sentito. Però quello che ho notato, per rispondere alla sua domanda, è questo, che purtroppo bisogna arrivare al magistrato che fa le intercettazioni per essere creduti, perché altrimenti i genitori cosa è accaduto nella sua scuola, Cristina? Ma nella mia scuola è successo questo, che noi abbiamo visto per 2 anni divisioni tra insegnanti. Vabbè, questo bambini, ci sta, questo ci sì, sta. Questo ci sta, però poi quando non collaborano, ma si riversa sulla disciplina dei bambini, che venivano tacciati di essere bambini diversi dagli altri. Sa cosa hanno detto le maestre? Che finalmente il preside è riuscito a portare. Se devo dire, mi tocca dare delle responsabilità anche a lui. Perché ma facciamo una cosa, Cristina, ci interrompiamo un secondo, se prende fiato, sì. Devo mandare la pubblicità. E mi dice bene, perché due cose. Prima, non voglio che sia la solita ossessione delle madri per cui pensa che tutti ce l'hanno con i propri figli, cosa che abbiamo vissuto tutti quando eravamo dei bambini a scuola. Voglio che siano fatti oggettivi. Se hai degli elementi oggettivi, con serenità ce li racconta. Fra un istante soltanto. I centri ottici Green Vision ti aspettano per il controllo gratuito della tua efficienza visiva. Greenvision.it vi presenta. Melog. Cronache meridiane. Sono le immagini della telecamera nascosta dei carabinieri nella stanza a documentare i comportamenti della maestra nei confronti dei suoi bambini. Prima un calcio, poi uno schiaffo. Un bambino viene addirittura preso per i capelli, alzato e spostato di peso in un'altra zona dell'aula. E ancora percossi, ingiurie verbali, strattonamenti. Comportamenti che l'educatrice poneva in essere sistematicamente nei confronti dei 12 bambini a lei affidati, tutti di età inferiore ai 3 anni. È successo all'asilo nido Salvador Allende di Collecchio, come è spiegato stamattina dai carabinieri. L'insegnante, madre di 55 anni, residente a Collecchio. 800240024, stiamo parlando di un episodio accaduto a Traversetolo, un insegnante di scuola elementare che è indagata in questo momento per episodi di maltrattamento e di insulti razzisti verso alcuni bambini. L'opinione è divisa, molti genitori, i sindacati difendono l'insegnante. Mi scrive un ascoltatore via sms da Parma, dice: perché non specifici che l'insegnante era napoletana? Ma a me non cambia molto che sia napoletana, parmigiana, pugliese o torinese, non faccio pregiudizi di provenienza regionale. Sentiamo l'ascoltatore Franco, buongiorno. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Sì. Comunque volevo dirvi che non sì. esistono comunque solamente i maltrattamenti più o meno diffusi, proprio fisici. L'ho sperimentato sfortunatamente per mia figlia, che quando ha fatto il liceo linguistico è durato dal primo fino al quinto anno. Era un insegnante di francese. A livello psicologico spesso e volentieri succedono anche questi maltrattamenti. Beh, che dia schiaffi a ragazze di 17 anni la vedo un po' difficile, sinceramente. No, sì, appunto. Spesso e volentieri anche i maltrattamenti psicologici fanno anche molto più male di quello fisico. Sì, però Franco, io capisco, i figli tornano a casa e raccontano cose, ma una cosa è l'insegnante che ha sistemi didattici bruschi o ti tratta male, una cosa la linea, mi rendo conto che dal punto di vista di un genitore è molto sfumata, ma un comportamento criminoso, cioè che merita poi l'attenzione di un magistrato, deve avere degli elementi oggettivi seri, deve essere un'attività reiterata, deve superare certi limiti. Un insegnante che è brusco soltanto come riporto gli alunni a casa è un'altra cosa. Cristina, buongiorno, mi ero interrotto con lei, mi spieghi il suo caso così poi sentiamo la collega della Gazzetta di Parma. Non sono cose gravi accadute, però non puoi neanche tentare di dire qualcosa che non va. È questo, perché ti trovi i genitori, l'istituzione, tutto contro. Non ti puoi permettere. Io però dico, se dei bambini, se le nuove maestre che sono arrivate nella scuola di mio figlio hanno detto che tutta la classe l'hanno trovata priva di autostima, con un grande clima di competizione, e la prima frase che hanno detto: noi siamo la peggiore della classe di questa scuola, qualcosa che non va, c'è. Sì, però in generale ho avuto figli piccoli, anche figli molto problematici, un figlio molto problematico, quindi posso aver passato tutte le ansie e le angosce di un genitore, però bisogna essere molto forti in questo caso qua. Bisogna adesso parlare soltanto delle circostanze che oggettivamente rappresentano un reato, poi le sensazioni in generale. Siamo d'accordo, la scuola è perfettibile da questo punto di vista. Qua parlo di maestre che compiono atti di violenza, di sopraffazione, di insulto diretto. Poi la maestra che non sa far bene il suo maestro, il suo mestiere, può starci benissimo, ne parliamo, però è un altro tipo di vicenda. Allora riprendo con Bianca Maria Sarti, che è la giornalista alla Gazzetta di Parma, che ha seguito le vicende. Trovi dei punti di vicinanza tra il caso di Collecchio, che poi è accaduto a settembre del 2015, quindi un mese fa, non è che sia così vecchio, e quello che sta accadendo dalle tue parti, a Traversetolo? Beh, sì, diciamo che la violenza in questo caso a Traversetolo è più che altro verbale. Ci sono stati strattonamenti, insomma, episodi di violenza fisica, ma sono tutto sommato poco paragonabili a quello che è successo a Collecchio. Si parla anche di bambini leggermente più grandi, anche se sono sempre molto piccoli, a 6 anni. Quello che è veramente diverso è la reazione dei genitori, nel senso che a Collecchio c'è stato, come dicevo prima, un muro, un'insurrezione nei confronti della maestra. In questo caso entriamo in questa classe e troviamo una parte dei genitori davvero molto agguerriti, sono quelli che hanno fatto partire della denuncia, sono quelli che accusano gli altri genitori di avere un atteggiamento troppo passivo, di omertà, di badare al proprio orticello, e dall'altra parte troviamo altri genitori che testuale dicono non tutti percepiscono il fatto con la stessa gravità. Però scusami un attimo, Carlo, le parole hanno un peso e adesso le dirò, volevo evitare. Nel tuo giornale vengono virgolettate alcune frasi che penso che derivino dalle intercettazioni dei carabinieri, quindi sono frasi messe a verbale che stanno nelle mani di un magistrato. Allora, stai fermo altrimenti ti spacco la faccia, ti prendo a calci del sedere, meno male che finisce la scuola così quando non ti vedrò più stapperò lo champagne. Poi ai bambini africani: ma guarda, se devo occuparmi di un bambino che ha la faccia del colore della merda. E venivano accompagnati, dicono i carabinieri, da strattonamenti, azioni decise per trascinare i ragazzi fuori dalla classe. Ora, per quanto uno possa tendere a minimizzare, dire una brava maestra, magari c'è qualche intemperanza, qua mi sembra che si vada oltre quelli che sono i limiti in cui si può discutere. Su questo non si discute, o mi sbaglio? Indubbiamente, i genitori ammettono che c'è stato un comportamento violento da parte della maestra, però aggiungono anche che è stato circoscritto solo da alcuni alunni, non è che sono i figli di nessuno, tanto bene sono i bambini neri che sono i più deboli di tutti, che avranno delle famiglie che non hanno nemmeno gli strumenti probabilmente per protestare, stanno zitti e buoni. Io ti ricordo il polso della situazione, però tieni presente un dato che è fondamentale: questa maestra era una supplente affidata a due sezioni. Questo problema è scoppiato in una sezione, nell'altra sezione ho sentito persone che dicevano che volevano riconfermarla anche quest'anno. Quindi il quadro è molto più complesso di quello che appare. Dimmi, anche se, perché vale anche questo, tu che opinione ti sei fatta, visto che hai seguito la cosa da vicino? Le opinioni valgono, perché anche il giornalista è un essere umano, ha la sua mediazione e oltre gli elementi oggettivi che hai riportato perfettamente, dimmi il tuo punto di vista. Il mio punto di vista, non ho le competenze per formularne uno davvero interessante, però posso dire che indubbiamente la violenza c'è stata, è documentata e dunque va condannata, a prescindere dagli elementi scatenanti. Poi indubbiamente appare, emerge dalla classe un problema di disciplina, mi hanno riferito di astucci tagliati, eccetera. E ma ci sono bambini di 6 anni. Emerge anche una sensibilità particolare da parte della maestra, cioè che insomma potesse portare con sé una serie di problemi. Però posso dirti una cosa, Bianca Maria, parlando di bambini di 6 anni, fosse una classe più grande, dico, beh, magari c'erano dei ragazzi borderline che venendo da situazioni particolari, marginate, potevano essere difficili da gestire con i soli strumenti che ha un insegnante che non ha mai gestito questi fatti. Ma bambini di 6 anni possono dare dei problemi così gravi da farla sbroccare in questa. E poi perché non ha chiesto aiuto a questo punto? Ha mille strumenti, ci sono dei ragazzi non gestibili con i miei strumenti didattici che ho messo a punto. Mi serve un aiuto per gestire dei ragazzi particolarmente difficili. Può essere ci siano ragazzi difficili, ma serve aiuto in questo. Certo, la maestra non solo non ha chiesto aiuto, ma ha anche continuato a negare e oggi nega ancora, mettendo in difficoltà, perché davanti a un'intercettazione audio-video com'è possibile negare, ma lei ammette solo in parte, dice sono state riferite da terzi, in realtà esistono delle intercettazioni che la inchiodano, per cui l'impressione è che forse i genitori facciano l'errore di distinguere la competenza nell'insegnamento della materia da quello che è un aspetto educativo globale che deve esserci nel rapporto tra maestra e ragazzo. Ma hai dato un quadro perfetto, vedi? Almeno io voglio pensare questo, che chi la difende difenda la sua capacità di insegnamento. Sì, trova veniale che abbia sbroccato con il piccolo negretto, perché dice, beh, alla fine non rompeste le palle perché era un rompicoglioni veramente, quindi gliela dette 4. Scusatelo, sì. te l'ho radicalizzata. Sì, ma c'è anche chi limita il discorso ha un problema razziale, però non è così, mi è stato detto da più persone che chi era preso di mira non era necessariamente straniero. Sono stati più turbolenti. L'aggravante dell'aspetto razziale c'è ed è incontestabile, per carità. Ma magari si rende conto che è più difficile, più sgradevole gestire un bambino straniero abituato diversamente e che magari non ti riconosce nemmeno l'autorevolezza di avere un insegnante. Esatto. Però ragazzi, fai l'insegnante, sennò vai a fare l'idraulico, fai un altro mestiere. Esatto. Parli soltanto con i sifoni del bagno e non devi gestire esseri umani. Ferma un attimo, Mara, buongiorno. Mara. Sì, buongiorno. Sì, il suo parere. Ma guardi, Io sono un'insegnante, anche mio marito è un insegnante, insegniamo da parecchi anni e la sensazione, certo non bisogna fare di tutta l'erba un fascio, però è che nella maggior parte delle scuole, in molte scuole, ci sia la preoccupazione di che non si sappia all'esterno se succede qualcosa di non... Diciamo il decoro della scuola prevale nell'interesse individuale dell'alunno? Sì. Poi un altro problema che si verifica, un'altra questione che si verifica è che i comportamenti sono dettati soprattutto da una regola: non avere problemi. È meglio non avere problemi. Allora, mi toglie Mara anche un dubbio. Lei trova che io abbia un atteggiamento prevenuto e punitivo nei confronti in generale degli insegnanti? Che può essere che magari questo trapela e non me ne renda conto? Perché... No, guardi, secondo me no. Io riferivo ai suoi collaboratori di un episodio che è successo a mio marito, che è arrivato in una scuola e ha saputo, in una scuola secondaria superiore, ha saputo... perché alcuni ragazzi gli hanno riferito che una ragazza minorenne aveva rapporti sessuali con un collaboratore scolastico. Tra l'altro lui si è subito preoccupato di questa cosa e ha messo in atto tutto l'iter burocratico, cioè ha parlato col preside. Logicamente, ha fatto il suo dovere. Esatto, risultato niente, praticamente questa situazione era nota a molti, non dico a tutti, però cioè, a molti. Un collaboratore della scuola maggiorenne con una ragazza minorenne, avevano una storia. All'interno della scuola, avevano rapporti sessuali all'interno della scuola. E com'è finita? È finita che mio marito ha dovuto da solo, contro tutti, andare dai carabinieri a denunciare la cosa. C'è stato un processo e questa persona è stata condannata. Aveva ragione perfettamente. Quando il collegio dei docenti, mio marito, ha sollevato la questione, cioè ha chiesto che se ne parlasse, un collega, ma era il parere di molti, perché poi era guardato male, un collega è intervenuto dicendo che non era all'ordine del giorno. Vabbè, questa è omertà mafiosa, lo sa meglio di me, suo marito ha fatto il suo dovere, dorma tranquillo. Gli altri, peggio per loro, evidentemente avranno sulla coscienza dei pesi e poi ognuno sono fatti o non faccio nel prete, nel confessore, nel poliziotto, nel magistrato. Riferisco i fatti. A tra un istante. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta Melog, cronache meridiane. .800240024, siamo arrivati a un punto che comunque quando in una scuola avviene qualcosa di irregolare, di brutto, di scandaloso, il clima generale è quello: non creiamo problemi alla scuola, e questo è già sbagliato. La scuola deve prendersi i problemi e saper gestire anche tutti i problemi. Giorgio, buongiorno. Buongiorno. Niente, lei prima si chiedeva del fatto che i presidi alle volte non prendono provvedimenti. Io penso che i presidi abbiano armi assai spuntate da questo punto di vista, come del resto anche gli insegnanti, ad affrontare le problematiche sempre più complesse nelle classi. No, sa cosa mi ha sorpreso a me? L'atteggiamento del sindacato, sì, subito assolutorio, quando in realtà ci sono degli atti giudiziari concreti e oggettivi. Prima di dire tutta una montatura, quando c'è un'intercettazione, che queste frasi comunque l'ha dette, sono a verbale, sono registrate, abbia un atteggiamento più prudente, invece fa la difesa d'ufficio. Questo mi fa riflettere, scusi Giorgio, che l'ho interrotto. Ma stato che mi sembra assolutamente equilibrato come ragionamento. No, dicevo che quei casi in cui i presidi sono intervenuti cercando di rimuovere, comunque casi assai rari, perché io ho girato tantissime scuole, voglio dire, i classici insegnanti che rappresentano dei casi umani sono comunque rari, cioè la normalità, grazie a Dio, sì, la grande maggioranza, ecco. Però quando hanno cercato di muoversi per togliere il posto di lavoro a queste persone, poi sono intervenuti anche dei giudici del lavoro che li hanno reintegrati. Quindi in realtà il problema è più complesso e esce anche dall'ambito della scuola. E da parte degli insegnanti, anche gli insegnanti hanno veramente armi completamente spuntate per affrontare classi che, lo sappiamo, sono sempre più complesse. La scuola italiana ha fatto una scelta importante, che è quella dell'inclusione di tutti, nessuno escluso. Altre nazioni non hanno fatto questa scelta, perché non so, in Francia i casi problematici vengono eliminati dal sistema scolastico in partenza, quindi già hanno molti meno problemi. È una scelta di civiltà, glielo dice uno che ha un figlio con handicap, quindi sono contento che mio figlio vada alla scuola insieme agli altri. sono da... Piuttosto si è chiuso in una specie di premanicomio già da bambino. Stiamo scherzando. È assolutamente come dice lei, però allo stesso tempo è importante fornire degli strumenti per affrontare queste realtà esattamente sempre questo. Più complesse. Questa, no? questa è la questione. Poi esatto, in questo caso è una scuola elementare, ritorno al punto, sennò sì. È una scuola elementare e quando, per quanto sia un bambino borderline, difficile, è un bambino di 6 anni. E comunque l'insegnante, secondo me, se da sola non ci riesce, chiede aiuto. Dice, mi serve qualcuno specializzato a gestire queste situazioni, che sono situazioni comunque gravi da gestire. Anna, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, grazie di avermi richiamato. Io sono un ex insegnante, ho 65 anni, ho insegnato sempre, è capitato così nei licei, ad adolescenti, però volevo così dire sommessamente, fare una proposta, molto sommessamente, proprio a difesa degli studenti, degli insegnanti, di chiunque lavori nella scuola, dotare le scuole, tutti i locali delle scuole, di telecamere. Vuol dire, mi pare uno strumento anche molto democratico, perché se si lavora. Sì, però è una questione che si è detto soprattutto sulle scuole materne, dove avvenivano più questi episodi. Sì, no, però no, ma questo esiste proprio scuole, un problema. All'asilo nido. Ci affidiamo ai nostri bambini, voglio dire. Sì, però scuole... esiste un problema. Innanzitutto. Ci sono dei problemi proprio legati alla privatezza delle persone, mettere strumenti di sorveglianza in ambienti di lavoro, le sa che ci sono dei problemi, in fondo lì svolgono il loro lavoro. Certo, però là voglio dire, come sempre il buon senso dovrebbe aiutare. Io sono molto d'accordo con i due colleghi che mi hanno preceduto, e che è vero che per i presidi è la cosa più importante, e appunto non ci siano problemi, e talvolta è capitato a me personalmente di chiedere così supporto, e mi è stato negato proprio nel senso non così direttamente, ma si rivolga al coordinatore. L'idea della buona scuola, quindi... di dare un aspetto manageriale alla figura del preside è stata abbastanza contrastata, era quello, il preside è anche responsabile, come un amministratore delegato ne risponde pure lui. Poi questo... allora, Bianca Maria Sarti, chiudo con te, dammi una tua valutazione dello sviluppo di questa vicenda, finirà come una tempesta in un bicchiere d'acqua o hai già altri elementi per vedere che il dibattito è semplicemente iniziato? No, andrà avanti sicuramente. Una cosa interessante sono le costituzioni di parte civile, perché da quello che emerge finora sembra che nessuno voglia costituirsi parte civile a parte il comune, nel senso che alcuni genitori, quelli che vi dicevo che ridimensionano un pochettino il problema, hanno già detto che non si costituiranno parte civile. Gli accusatori mi hanno detto che, almeno quella con cui ho avuto occasione di parlare, non si costituiranno parte civile perché testuale non l'ho fatto per un tornaconto, non voglio i soldi di quella donna, e frasi di questo tipo. Beh, mica prende i soldi, lei andrebbero a una causa di superiore interesse. Vediamo, riprendiamo la cosa, ci comunicherai se ci sono sviluppi e noi ci torneremo, che siamo anche curiosi di sapere come va a finire. A domani. Va bene. Grazie.